Osteria della Fontana, chilometro 62-700 ad Anagni. E per saperne di più, www.indiantatu.net. Eccoci qua, amici ascoltatori puntuali, 17:30 minuti primi, e sulle note di Mario Lavezzi diamo inizio a questa trasmissione. Benvenuti all'ascolto di Radio Ernica, vi terremo compagnia fino alle 20 di questa sera. La vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà. Questa mia mela tu sola puoi spostare, sai, il limite, facendo diventare me un principe. Bianco e nero, vuoi dirmi chi è? Lo sai anche tu, c'entra poco con me. Forse una strega mi sento, semmai, se dici di più lo pensi anche tu. Ma guarda questi occhi miei, ti bruciano. Senti queste mani mie, ti incendiano. Mi piace così, ho il fuoco nel sangue, sarò la tua droga. Dimmi che però mi vuoi, e subito, dimmi che non ce la fai a vivere. Senza me, senza me, senza me, senza me, ma dove vai amore? Giuro che ti abbraccerò, ti bacio, ti soffocherò. Qui allora pronti a questo appuntamento del pomeriggio con Radio Ernica. Noi naturalmente siamo ben felici anche oggi di poter trascorrere con voi una parte del nostro pomeriggio, una parte molto importante naturalmente del nostro pomeriggio, con musica e informazione. Sono queste un po' le caratteristiche di questo programma. Voglio ricordarvi che potete anche vedere questa trasmissione su www.radioernica.com, potete sintonizzarvi naturalmente sui 105.9 della modulazione di frequenza e lì ascoltare, come al solito, in maniera analogica, diciamo così, la trasmissione. Potete telefonarci allo 0775 726546 se volete dialogare con noi, se volete scambiare qualche opinione. Pomeriggio molto caldo, devo dire, malgrado la mattinata avesse in qualche modo dato l'idea che invece fosse una giornata diversa, una giornata uggiosa, diciamo così, una giornata invece che si è dimostrata molto calda, in linea con le temperature del periodo, e soprattutto anche molto afosa, perché effettivamente fa molto caldo. Una giornata particolare perché Anagna è invasa da turisti, Anagna è invasa dai turisti che provengono dalla manifestazione del convitto Principe di Piemonte che sta realizzando il consueto ritrovo annuale degli ex convittori. Quindi Anagna è veramente invasa ovunque da familiari di ex convittori anche di età molto avanzata che si stanno abbracciando, baciando e ritrovandosi nelle strade della città. Quindi a loro, semmai ce ne fosse qualcuno in ascolto, noi auguriamo un buon pomeriggio e auguriamo soprattutto a loro di potersi ritrovare nel migliore dei modi nella nostra città. Bene, un saluto anche a chi come al solito ogni pomeriggio si sintonizza con noi, adesso le voci diventano sempre di più di quelli che praticamente li incontrano, parlano di questa trasmissione, parlano della radio e magari si lasciano andare anche a qualche commento positivo e noi quindi di questo non possiamo che essere felici. Nel corso del pomeriggio probabilmente avremo anche altri amici che si inseriranno in questo contesto. Noi andiamo avanti, facciamo una breve pausa prima di uno spazio informativo. Con i figli non li tieni più in braccio, ma diventi un ostaggio per il loro futuro. E si alza quel muro che non c'era mai stato, che segna il confine tra presente e passato. Quando crescono i figli non ti danno più retta, hanno sempre ragione e vanno troppo di fretta. Sanno dirti soltanto buonanotte o buongiorno e ti accorgi che è meglio se ti levi di torno. E allora ripensi ai tuoi genitori, la tua insofferenza, ai loro timori. E basta piloni o castelli di sabbia, il mondo era fuori, tu dentro una gabbia. Scontro diretto tra le loro esigenze e il tuo mare di affetto. Chi si crede già grande, chi si sente più vecchio, ma poi ti guardi allo specchio e quel ragazzo davanti ai tuoi occhi sei tu. C'è sempre una piccola parte di te. Mm. e spiegami perché è capitato a me di aver domande a cui non so rispondere. Un fiore mi racconta di essere disponibile alle cose che nei giorni si succedono. Non risparmiare mai, non essere gelosa del profumo che mi Questo pezzo si intitola Più Sole, allora auguriamo che questo sia, come dire, un messaggio recepito e che quindi si possa avere più sole, perché ne abbiamo veramente bisogno, soprattutto dopo un inverno particolarmente difficile e brutto. Diamo un'occhiata alle notizie, perché voi sapete che questa è una trasmissione di notizie, prevalentemente di notizie e di informazione che arriva un po' da tutte le parti, perché naturalmente siamo sempre felicissimi di fare questo minestrone, questa miscellanea informativa ogni pomeriggio. E allora vediamo un po' quali sono le notizie. Intanto partiamo da questa grande manifestazione che ci sarà domani a Roma, al Pala Lottomatica, alle ore 10. Ci sono dei punti di incontro per consentire a tutti per partecipare a questa manifestazione. Sarà anche l'occasione per spiegare in maniera approfondita le nostre proposte, dice il PD, a disposizione dei pullman che partiranno da Frosinone, Sora, Anagni e Cassino. Vediamo anche gli orari: a Frosinone presso il parcheggio del bar Il Canarino alle 8.30, a Cassina all'uscita 1 al bar Varlese alle 8, a Sora alla stazione ferroviaria alle 8 e ad Anagni all'uscita A1 alle 8.30. E vediamo anche come viene commentata questa iniziativa. Il coordinamento del PD di Frosinone aderisce e sostiene la manifestazione indetta dal PD nazionale per domani al Pala Lottomatica di Roma, una manifestazione per protestare in maniera chiara e forte contro una manovra del governo fatta sola di tagli che colpisce regioni ed enti locali, ma lascia inalterata la spesa della politica centrale, che è invece la vera responsabile dei conti fuori controllo. Ancora una volta il governo della destra sceglie di colpire i più deboli mentre non interviene sulle rendite e sui grandi patrimoni. Siamo di fronte ad una finanziaria irresponsabile che colpisce lavoro, dipendente e pensioni, che opera tagli indiscriminati sulla cultura, sulla scuola e sulla ricerca senza nessuna logica se non quella dell'affanno nel recuperare risorse utili a fare cassa nell'immediato, imponendo drastiche riduzioni dei servizi erogati da regione, province e comuni, che inevitabilmente finiranno per penalizzare studenti, lavoratori, piccole imprese e pensionati. Ma non sarà una manifestazione solo di protesta, sarà anche l'occasione per spiegare in maniera approfondita le 6 proposte di liberalizzazione del PD in merito a carburante, farmaci, ordini professionali, sostegno all'accesso delle nuove generazioni, banche e bolgetta del gas. Per questo motivo il PD di Frosinone invita tutti a partecipare alla manifestazione che si svolgerà appunto domani alle 10 al Pala Lottomatica a Roma, e per questo motivo metterà a disposizione dei pullman che partiranno appunto, come abbiamo detto, da Frosinone, Sora e Cassini. Per informazioni comunque potete andare anche sul sito internet www.pdfrosinone.com oppure telefonare allo 0775 852695. Bene, abbiamo aperto e chiusa allora la pagina politica, diciamo così, almeno quella relativa al Partito Democratico della provincia di Frosinone. Vediamo invece cosa accade in provincia. C'è ancora polemica per questo problema della formazione lavoro, la struttura e gli uffici della provincia di Frosinone dovranno, cosa è successo, qual è il problema? La struttura e gli uffici della provincia di Frosinone dovranno sobbarcarsi di un enorme lavoro di rendicontazione per evitare la restituzione di circa 15 milioni di euro impiegati nei corsi di formazione e non in regola con le rendicontazioni negli anni precedenti, che vanno dal 2000 al 2006. E questo quanto ha voluto chiarire ieri il presidente della provincia Iannarilli, che ha illustrato con una nota il senso della delibera assunta nei giorni scorsi e con cui si sono stanziate risorse per riesaminare 24 progetti per un ammontare di circa 400 corsi che devono essere rendicontati tutti in una volta e con tempi strettissimi. Iannarilli ha spiegato la delibera approvata dalla Giunta Provinciale sulle certificazioni della spesa dell'Agenzia di Formazione nell'ultima seduta, è molto chiara ed è indispensabile. Noi non abbiamo stanziato, ha ribadito, 150.000 euro per fare nuove verifiche sui conti dell'Agenzia, siamo dovuti correre ai ripari e realizzare un lavoro extra per realizzare e fornire giuste rendicontazioni per il periodo dal 2000 al 2006 ed evitare di perdere milioni di euro, per la precisione 15 milioni. Abbiamo più volte detto che i conti dell'Agenzia di Formazione che abbiamo ereditato erano pieni di problemi, la dimostrazione di quanto dicevamo è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo costretti a spendere dei soldi ora per evitare danni ben maggiori. È evidente che avremmo preferito risparmiare questi soldi, ma la situazione che ci hanno lasciato è tale che siamo costretti ad adottare i provvedimenti che sono chiaramente e lucidamente, con estrema trasparenza ed evidente competenza, espressi nella delibera di giunta 183 del 2010. In sostanza abbiamo studiato noi come fare a venire fuori da un problema che hanno creato altri. Questa delibera, concluso Iannarilli, serve ad evitare ulteriori perdite di tempo. Ovvio, nemmeno a dirlo, che naturalmente la controparte, cioè l'attuale opposizione, ex maggioranza, non è assolutamente d'accordo. Accordo fatto tra la Polverini e l'UDC, la giunta regionale si appresta a cambiare aspetto, si avvicendano 4 assessori e ne entrano 2 nuovi, un rimpasto record praticamente. La provincia di Latina piazza un altro uomo in esecutivo, Rieti e Viterbo ritrovano le loro rappresentanze con le nuove 2 new entry e la Cenerentola Frosinone resta ancora una volta a guardare, ma soprattutto resta a bocca asciutta. Unica provincia senza assessore in esecutivo, è stata raggiunto questa mattina, recitava ieri una nota stampa della regione, l'accordo dal presidente della regione Lazio Renata Polverini e l'UDC. Abbiamo lavorato insieme in queste settimane, ha dichiarato la Polverini, per arrivare ad una intesa. Con questo accordo, nel rispetto del patto con gli elettori firmato in campagna elettorale, degli obiettivi programmatici condivisi, completiamo la composizione della giunta regionale, che vedrà l'ingresso di Luciano Ciocchetti e di Aldo Forte. Agli esponenti dell'UDC sarà attribuita la vicepresidenza e la delega all'urbanistica e alle politiche sociali. Bene, ma chi lascerà la giunta per far spazio ai due? Non ci sono altre note ufficiali, almeno per il momento. Le indiscrezioni sono sempre le stesse. Francesco Battistoni, Viterbo, e Antonio Cicchetti Rieti, entrambi del PDL, anche perché in esecutivo sono gli unici ad essere anche consiglieri e quindi a mantenere comunque una poltrona. Su questo dobbiamo ancora discutere all'interno del PDL, lo faremo rapidamente, ha dichiarato però all'ANSA il coordinatore del PDL Lazio Vincenzo Piso. Dunque ancora nulla di fatto, anche perché ieri Cicchetti, il più restivo a farsi da parte, ha detto: l'unica persona che può parlare con me è chi mi ha conferito l'incarico, cioè Renata Polverini. Finora non mi ha detto niente, è lei che ha il potere di ritirare e conferire la delega, tutto il resto è noia, tanto per chiarire quanto tenga in considerazione il parere del suo partito. Ma se Cicchetti e Battistoni, complici il vincolo di massimo 11 rappresentanti per ogni sesso in giunta, lasciano l'esecutivo per fare spazio a due uomini dell'UDC, il PDL recupera i due posti persi con altrettante donne. La giunta sarà così a 15, assessori più il presidente, alchimie politiche, non certo quote rosa. Le nuove assessore saranno indicate dal PDL al posto dei due sacrificati e proverranno dalle due province rimaste orfane degli stessi, Viterbo e Rieti. Per Frosinone ne va notato, tanta cura non si è mai vista. Al posto di Battistone, dicono i rumori di fondo, potrebbe giungere Simonetta Badini, prima dei non eletti nella Tuscia. La ciociaria anche a questo giro, e nonostante ci sia ancora una poltrona inutilizzata, la 16ª ed ultima secondo lo statuto, resta a guardare, ma soprattutto resta fuori dall'esecutivo, unica provincia della regione Lazio a restare fuori. Enti montani verso la chiusura. Oggi sarà illustrata la proposta di legge per sopprimere le 22 comunità, un'iniziativa intrapresa dal gruppo della lista Polverini e dell'assessore al ramo Giuseppe Cangemi. Risparmieremo 10 milioni di euro l'anno, sopprimiamo le comunità montane, risparmieremo oltre 10 milioni di euro all'anno. La proposta è dell'assessore regionale agli enti locali Giuseppe Cangemi, che si dice intenzionato a chiudere i 22 enti montani presenti nel Lazio, perché dice di montano nella nostra regione c'è poco, e perché è intenzionato a sopprimere gli enti inutili. Il gruppo regionale Lista Polverini terrà una conferenza stampa questa mattina alle 11.30 presso la sala Etruschi del Consiglio regionale per illustrare le linee principali della proposta di legge regionale, che prevede l'eliminazione delle comunità montane del Lazio. A chiusura della relazione che introduce a proposta si legge: le comunità montane spesso si sono dimostrate incapaci di proseguire e raggiungere gli scopi per cui erano nate, trasformandosi in sovrastrutture burocratiche. Le comunità montane non saranno d'accordo e le polemiche già si annunciano numerose. L'idea di Cangemi e della maggioranza alla guida della regione, va detto, non è neanche originale. In 39 anni di esistenza le comunità montane nate nel 71 con la legge 1102, più volte le istituzioni hanno attentato alla vita degli enti montani, ma loro dalle Alpi Giulie all'Appennino Calabro sono sempre lì. L'ultimo tentativo di smantellare le comunità montane c'è stato con la legge finanziaria del 2008, che imponeva alle regioni tagli alle spese ed un complessivo riordino con riduzione di enti. Nel Lazio ci si è limitati a fare una leggina che ha fissato norme provvisorie per il contenimento delle spese, in attesa di una legge che però il Consiglio regionale non ha mai discusso. Andrà a buon fine questo progetto? Lo vedremo, vedremo se i partiti sapranno rinunciare a queste forme di gestione del territorio. Una reale fotografia dell'economia in provincia di Frosinone è quella scattata dalla Camera di Commercio, collaborazione con l'Istituto Tagliacarne, che insieme hanno realizzato il rapporto strutturale 2009, il rapporto sulla capacità attrattiva turistica della provincia di Frosinone. Questa mattina, sempre alle 11, nella sala convegni della sede di Via Roma della Camera di Commercio di Frosinone, si è svolta una manifestazione proprio per presentare gli

a stento e con sguardo severo, lascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove. Magica quiete, velata indulgenza, ingrata tempesta, riprendi il fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove. Siamo tornati in diretta, ancora Marco Tagliaboschi ad augurarvi il buon ascolto da Radio Ernica, il buon proseguimento con le nostre trasmissioni, con questa iniziativa pomeridiana che ormai è diventata praticamente una trasmissione, come dire, molto seguita, ce lo dicono in molti, quindi facciamoci anche un po' di, come dire, autopubblicità. Allora, vediamo un po' le notizie sempre sul locale. Un grave incidente stradale sulla via Anticolana e nonno Nicola, dice così il giornale, è trasferito ieri mattina in una struttura specializzata in ortopedia a causa delle fratture ad omero e clavicola. Giovedì sera il bivio maledetto per Pontepiano, una sorta di rebus mai risolto per chi si accinge ad accedere dalla superstrada per Fiuggi, è stato teatro dell'ennesimo scontro tra vetture. Nicola, pensionato molto conosciuto ad Anagni e periferia per aver gestito fino all'anno scorso un avviato ristorante del centro storico, era impegnato nella manovra di immissione nella strada che conduce alla sua abitazione, provenendo da San Filippo. Per motivi al vaglio dell'autorità intervenuta sul posto, veniva a collisione con un'altra vettura guidata da un giovane anagnino proveniente da Fiuggi. L'urto si è materializzato verso il centro della strada, maggiormente in prossimità dell'aiuola spartitraffico, e ha prodotto lesioni per ambedue i conducenti. È intervenuta immediatamente l'ambulanza del 118 partita dalla postazione di via Onorato Capo, i cui operatori hanno deciso per il trasporto e ricovero in ospedale. Anche per il giovane Marco, ugualmente ben voluto in città, le condizioni apparivano abbastanza serie. La sospetta frattura alle costole e allo sterno non è cosa lieve, soltanto l'età ed il buon stato fisico fanno sperare in una perfetta guarigione. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri di Anagni, successivamente alla pattuglia della polizia stradale, sono intervenuti pure i vigili del fuoco di Fiuggi che con i potenti proiettori mobili hanno illuminato la scena, altrimenti nel buio più assoluto. E quindi facciamo gli auguri a queste due persone, a questi due cittadini che praticamente fanno i conti con uno dei tanti purtroppo incidenti che si realizzano nella nostra città. Passiamo da Anagni a Fiuggi, il piano Pinto e i nuovi contratti con San Gemini, il gruppo Umbro che gestisce l'imbottigliamento della celebre acqua oligominerale ha continuato ad alimentare polemiche e rischiano di incendiare il dibattito politico. Il piano di riequilibrio finanziario di Acqua e Terme, la società del comune oggi in liquidazione e in procedura di concordato preventivo, sta di nuovo facendo salire la tensione con il comune che è senza risorse finanziarie e corre il concreto rischio di finire in dissesto economico. L'approvazione delle banche è stata comunicata al sindaco Fabrizio Martini e al liquidatore dell'ATF il 9 giugno. L'adesione degli istituti di credito e di San Gemini mette il comune davanti a una scelta delicatissima: mandare a carte 48 il piano Pinto e presentare in tempi rapidi un progetto alternativo per evitare il fallimento di ATF e il dissesto finanziario del comune, oppure accettare il piano di riequilibrio finanziario esponendosi però a inevitabili risvolti politici. La lettera esiste e l'ho vista con i miei occhi, garantisce il consigliere comunale di opposizione Antonio Maulu, ed è una vergogna nei confronti della città negarlo e tenerla nascosta. C'è l'adesione di Unicredit e San Gemini e con la firma degli atti da parte del comune entro 30 giorni l'ente avrebbe la possibilità di incassare 6 milioni di euro ed uscire così dalle attuali difficoltà economiche. Se il comune resta in queste condizioni, aggiunge il consigliere Maulu, le responsabilità sono di chi non vuole arrivare ad una soluzione a vantaggio della città. Sale dunque lo scontro politico sul piano Pinto e dopo l'infuocata estate dello scorso anno, la lunga occupazione dell'aula comunale, gli incidenti al comune e il consiglio comunale costretto a riunirsi lontano dalla sede istituzionale, si va verso un'altra stagione bollente. L'amministrazione comunale guidata da Fabrizio Martini è composta da Fiuggi Libera e Polo per la concentrazione, parte del PD, PSI, Comunisti Uniti e indipendenti di sinistra, ha già bocciato il piano Pinto, disconoscendolo con una lettera inviata al liquidatore. Posizione ribadita dal sindaco anche la scorsa settimana in consiglio comunale: o San Gemini lo respinge o andremo verso una scelta drastica. In gioco c'è il futuro di ATF e del comune che rischia di finire in dissesto. Il fallimento di Acqua e Terme aprirebbe scenari drammatici, con tra l'altro l'annullamento del concordato preventivo, la perdita di tutti i posti di lavoro, lo scioglimento dei contratti di gestione per l'imbottigliamento e le terme e il possibile blocco dell'attività per terme stabilimento. Il piano Pinto, come annunciato dal sindaco, tornerà presto in consiglio comunale, che sarà chiamato a una scelta decisiva per il futuro della città di Alatri, città di Fiuggi, scusate. Ho visto che c'era un'altra parte dedicata ad Alatri con molte polemiche sul bilancio di previsione che è stato appena approvato e quindi abbiamo fatto questo piccolo lapsus, nulla di grave naturalmente. Un buon ascolto a voi tutti da Marco Tagnaboschi e l'invito a rimanere sintonizzati, mi auguro anche al fresco perché la giornata è veramente molto calda. Il calore di una casa veramente tua lo scopri in un arredamento in sintonia con la tua personalità. Mobilificio Stazzi è l'idea che cercavi. Al Mobilificio Stazzi sei sicuro di quello che trovi e potrai scegliere in un vasto assortimento i migliori mobili delle marche più prestigiose. Al Mobilificio Stazzi la professionalità e la cortesia sono di casa. Mobilificio Stazzi, dei fratelli Stazzi, in via Anticolana ad Anagni, chilometro 2, telefono 0775 76 84 71. Mobilificio Stazzi, la casa come la pensi tu. Per renderti la vita più facile, per chi come te ha così poco tempo a disposizione, c'è chi con capacità, professionalità e preparazione risolve tutti i tuoi problemi e quelli della tua auto. Centro Servizi Caruso di Valentina Caruso ad Anagni, Osteria della Fontana, via San Giuseppe, visure al Pra, certificati, camera di commercio,

saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Sette minuti primi in questo momento, Marco Tagliaboschi di nuovo a salutarvi ed augurarvi il buon pomeriggio nella vostra radio del cuore, Radio Ernica, che trasmette da Nagni in FM su 105.9 della modulazione di frequenza, ma che potete anche seguire tramite il nostro sito internet, che naturalmente ormai credo conoscerete bene perché è ricco di notizie e di fatti, e vi invito veramente a dare un'occhiata. www.radioernica.com, Radio Ernica con la H davanti alla E di Ernica. Più di qualche persona mi dice che praticamente non riesce a vederlo il sito, ma se naturalmente non si mette la H davanti alla E c'è qualche problema. Bene, detto questo, torniamo alle notizie e ad una operazione della Guardia di Finanza. Armi denunciate, sì, cioè regolarmente detenute, ma non conservate sotto chiave, ossia in maniera adeguatamente protetta. Fucili e pistole, ma anche proiettili non dichiarati, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nel corso di un'operazione nella città Volska. In un altro intervento, inoltre, le Fiamme Gialle hanno sequestrato un'arma da taglio trovata addosso ad un ragazzo Due dunque le persone denunciate a piede libero. Le distinte attività condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone sono state coordinate dal colonnello Giancostabile Salato e dal capitano Vincenzo Ciccarelli. La prima operazione è avvenuta nella periferia di Sora, qui i militari, nel corso di un controllo presso un fabbricato, hanno rinvenuto una sorta di arsenale. Trovate 6 armi, 2 fucili da caccia, un cosiddetto sovrapposto e una carabina e 4 pistole. Il tutto, ricostruiscono i finanzieri, era nella portata di chiunque fosse entrato lì dentro. Vale a dire, non erano state adottate le prescritte misure di custodia, di protezione delle armi, tale da impedirne l'impossessamento da parte di altre persone. Nello stesso stabile, inoltre, i finanzieri hanno recuperato numerosi proiettili, cioè munizioni che non risultavano regolarmente denunciati alle forze dell'ordine. È così scattato il sequestro di tutto il materiale per violazione della legge in materia di armi e munizioni. Lo stesso è stato poi messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il detentore invece è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cassino. Nella seconda operazione invece, sempre a Sora, le fiamme gialle, durante un normale controllo effettuato nei confronti di alcuni giovani, hanno rinvenuto un coltello, un'arma da taglio con lama di oltre 16 centimetri. Stando alle indagini, lo aveva un ragazzo in una tasca dei pantaloni. Il giovane è stato così denunciato alla Procura di Cassino per porto abusivo di arma. Il coltello invece è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. 600 grammi di droga trovati a casa sua. Per lui, un giovane di 25 anni di Sora, è scattato l'arresto. A trovare la sostanza stupefacente sono stati i carabinieri della compagnia di Sora, coordinati dal capitano Luca Cesaro e dal tenente Angelo Lachimia. Stando alle indagini, gli uomini dell'arma già sospettavano del ragazzo, ritenevano che potesse avere disponibilità di stupefacente, così hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale, ricostruiscono gli investigatori, sono stati rinvenuti circa 6 etti tra hashish e marijuana, di cui una parte già suddivisa, 2 bilancini di precisione, nonché materiale utile al confezionamento. Il giovane dunque è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari, inoltre, durante l'intervento effettuato l'altro ieri, hanno anche sequestrato 1.700 euro in contanti. I carabinieri di Sora hanno assicurato che ci saranno controlli per prevenire e contrastare l'eventuale circolazione di droga sul territorio, saranno ulteriormente rafforzati i controlli. Vediamo altri fatti partendo da questa indagine della Procura della Repubblica. I funzionari del Comune sono stati sentiti come persone informate sui fatti, sono i tecnici che hanno avuto a che fare con la pratica, in particolare con i sopralluoghi fatti nel 2005 dopo che la Forum aveva presentato una domanda di variante e chiedevano il via libera ad un aumento di cubatura. Sono stati gli aspetti da chiarire, tante le domande che aspettano una risposta, da quando nel 2005 tecnici e vigili urbani del Comune riscontrarono gli abusi edilizi realizzati senza aspettare la concessione della variante. Alla fine di marzo del 2005 è arrivata un'ordinanza di sospensione lavori, il Comune dà alla Forum 3 mesi di tempo per demolire l'abuso. È da chiedersi come mai proprio in questo periodo, e malgrado le ordinanze del Comune, un istituto di credito abbia concesso alla società oltre 2 milioni per ultimare la costruzione. Una inchiesta dunque che prospettano anche sviluppi clamorosi in questa vicenda di abusi che riguarda il Comune di Frosinone. Una abitudine davvero assurda, una bravata da ragazzi che ha creato una certa apprensione tra gli automobilisti in transito lungo via Maria a Frosinone. È accaduto ieri pomeriggio quando da un balcone di una palazzina ignoti hanno cominciato a lanciare gavettoni sulle vetture di passaggio, palloncini pieni di acqua scagliati sulla strada che hanno generato preoccupazione tra i conducenti.

per tutti voi nel migliore dei modi, perché insomma credo che una pausa dal tran tran quotidiano credo che sia veramente necessaria. Un protocollo d'intesa tra Confindustria, collegi notarili di Frosinone e Cassino e Comitato Permanente per le Piccole Imprese è stato siglato ieri mattina con l'obiettivo di far crescere, sviluppare e migliorare le piccole e medie imprese ciociare. I notai forniscono gratuitamente consulenza alle aziende ciociare in fatto di capitalizzazione, creazione di nuove società, ricorso al credito, modifiche normative e patti di famiglia. Confindustria Frosinone metterà a disposizione la propria sede ai notai e alle imprese il mercoledì e la sede di Cassino il giovedì. Un obiettivo importante è quello di crescere e di cercare di abbattere l'alta percentuale di chiusura delle aziende quando avviene il passaggio generazionale. Il 60% delle imprese che tentano il passaggio generazionale da padre a figlio chiudono i battenti, ha spiegato Davide Papa del Comitato. Spesso i figli non sono all'altezza, ma manca anche la cultura di affidarsi a manager esterni. Questo protocollo, ha chiarito, permetterà tramite un tavolo permanente di fornire consulenze cercando di aggregare varie aziende con manager esperti. Per i consigli notarili l'accordo permetterà alle imprese di abbattere i costi essendo consulenze gratuite ed abbattere anche i tempi della burocrazia, anche perché le piccole e medie imprese in ciociaria rappresentano la grande maggioranza delle industrie. L'accordo servirà a creare i presupposti per consentire alle imprese del territorio per creare, sviluppare ed avere un futuro certo, ha concluso il presidente di Confindustria, Marcello Pignacelli. Bene, noi ci auguriamo che veramente questa nuova collaborazione possa anche dare una mano alle aziende, perché le aziende sono veramente in grande difficoltà. Non sapevo che esistessero delle problematiche così serie quando c'è un trapasso generazionale, cioè quando un'azienda di famiglia passa ai propri figli. Quindi mi auguro che effettivamente questo possa essere migliorato e si possa guardare al futuro con meno difficoltà, perché in effetti la situazione attuale, insomma, di ottimismo ne crea veramente molto poco. Bene, noi ci fermiamo un attimo, però tra pochissimo andiamo a vedere uno spazio molto seguito, degno di grande attenzione anche da parte vostra, ed è la passeggiata che facciamo nei maggiori siti internet nazionali per vedere le notizie del giorno. Di un amore che hai buttato via, sono resti di emozioni forti della vita mia. Le caramelle troppo amare adesso da mandare giù, lo sai, ma hai lasciato un grande vuoto dentro che non va più via. Andare avanti devo dire solo colpa mia. Qualche volta ti diventa amica pure una bugia. Quando due si lasciano vivi senza regole. Quanti giorni inutili che schiacciano il perché. Non si dorme più quando due si lasciano. Ormai adesso tu chiedi a me il tempo migliore qual è fra quelli che ho visto trascorrere. Sai, fin da bambino ti direi, ho camminato io seguendo il mio modo di vivere. Così, al sole della mia libertà, col passo leggero che ha. Poi, un giorno qualcuno ti fa l'esame di maturità, e forse devo ancora rispondere. Così, se adesso tu chiedi a me il più bel tempo qual è? Adesso con te, io sto vivendo qui con te, il tempo migliore è il mio presente qui con te. Quando ti vedo accanto e mi consolo, penso che non sono solo mai. Adesso con te, io sto vivendo qui con te. Sai, la vita ti passa via e alla fine ti dà la somma dei respiri e dei battiti. Sai, è vero che veloce va, balzi da felino fa, e imparo a non perdere gli attimi. Così, se adesso tu chiedi a me il più bel tempo qual è? Adesso con te, io sto vivendo qui con te, il tempo migliore è il mio presente qui con te. Quando ti vedo accanto e mi consolo, penso che non sono solo mai. Adesso con te, io sto vivendo qui con te, il tempo migliore è il mio presente qui con te. Se puoi sentire che il mio cuore batte, le passioni ancora intatte, sai, adesso col te. Familia. grandissimo Claudio Baglioni, un grandissimo, popolarissimo, sempre di più Claudio Baglioni. Bene, noi ci fermiamo un attimo con la musica. Avevamo detto che avremmo un attimo dato un'occhiata ai siti internet, e allora lo facciamo subito e vediamo cosa succede. Allora, quali sono gli argomenti più importanti che sono, come dire, portati, evidenziati all'attenzione del grande pubblico nazionale, perché ormai questi siti internet, quello di Repubblica, quello del Corriere della Sera, fanno ascolti che insomma si avvicinano molto, moltissimo a quelli che sono gli indici di ascolto televisivi quasi, quindi insomma parliamo di questi numeri, parliamo di numeri veramente molto significativi. Allora, ancora un no alla legge bavaglio, ci sono dei video appelli, vediamo se riusciamo a trasmetterne qualcuno di questa legge così contestata dal mondo dell'informazione e della giustizia italiana, anche se sembra che su questa legge ormai si sia creato un vero e proprio pantano e le cose si stiano rallentando di molto. Vediamo allora questi video appelli. Buongiorno, sono Tony Servillo. Lo sapete che la legge bavaglio sulle intercettazioni nega a voi cittadini il diritto di essere informati? Bene, adesso lo sapete. Pensateci. Tony Servillo, il famoso attore che si è espresso contro questa legge bavaglio, vediamo se ce ne sono altri. No, viene ripetuto di nuovo, anche se invece ne vengono annunciati diversi, diciamo così, di videomessaggi, però sostanzialmente è solo Tony Servillo ad essere ripreso. Allora, c'è un pezzo invece che dice il Cavaniere suona la ritirata, evidentemente suona la ritirata su questa legge. Vediamo almeno come viene interpretata questo atteggiamento più cauto di Berlusconi su questa legge bavaglio dal sito di Repubblica. Vediamo cosa dice Repubblica. Intercettazioni, alla Camera i finiani cantano vittoria. Più facile fare impresa, sciopero a Mirafiori. Mondiali, vigilia blindata per gli azzurri di Lippi. Sulle intercettazioni dicono dalla destra, diciamo così, che la scelta di Berlusconi è tra arenarla, lasciarla andare verso settembre sapendo che finisce spiaggiata, oppure lasciarla deformare e comunque arrivare a un risultato completamente diverso da quello che voleva prefiggersi. Sono sempre possibili dei colpi di scena, evidentemente. È chiaro che dentro la partita generale sulle intercettazioni che lui gioca c'è anche una partita minore di come uscirne senza lasciare la vittoria a Fini, alla resistenza di Fini, Quirinale, eccetera, eccetera, a cui poi si è aggiunto il realismo di Bossi, che è stato in qualche modo decisivo. Cominciamo da qui? Concetto. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri, per cui vediamo cosa dirà Berlusconi, e probabilmente ci sarà uno sfogo da parte sua, poi vediamo come procedono le trattative. Siamo alla vigilia della manifestazione del PD, che è sulla manovra ma anche sulla legge bavaglio, e poi va registrato un Granata che ha espresso molta soddisfazione in un articolo apparso oggi sul sito dei Finiani, in cui sostanzialmente ha detto: si sono affermate le nostre idee, la nostra battaglia, stiamo cominciando a vincerla. Marco? Sì, il Consiglio dei Ministri di oggi comincerà l'esame di un importante disegno di legge costituzionale che vuole modificare due articoli della Costituzione, il 41 e il 118. L'obiettivo è quello di consentire a chiunque voglia aprire un'impresa di farlo senza autorizzazioni, soltanto con una segnalazione di inizio attività, un'autocertificazione, mentre i controlli pubblici arriveranno in un secondo momento, a posteriori. Lo stesso Consiglio dei Ministri approverà anche un aumento delle tasse sulle sigarette a più basso costo. Mentre sulla vicenda Pomigliano oggi si registra uno sciopero dei lavoratori di Mirafiori contro il piano della Fiat per Pomigliano, piano che verrà comunque sottoposto al referendum martedì prossimo. Sport. Anche oggi abbiamo una vigilia dell'Italia abbastanza protetta. Lippi sta nascondendo la squadra, non si riesce a capire bene quale formazione vuole mandare in campo con la Nuova Zelanda. Certamente dalle indicazioni di questi giorni si capisce che l'Italia giocherà con due attaccanti, il che è già di una novità. Bisogna vedere se si tratterà della conferma di Girardino e uno tra gli attaccanti è di Natale, oppure se invece ci sarà una sorpresa totale, che potrebbe essere per esempio quella di Pazzini e di Natale. Beh, l'ernia del disco di Buffon è un infortunio dal quale non si guarisce certamente con un miracolo, seduta di fisioterapia. Tutto lascia pensare purtroppo che il mondiale di Buffon sia finito. Ha anche detto che l'indicazione della Juventus, che è andata subito ad acquistare un portiere, è abbastanza scoraggiante in proposito. Sicuramente torniamo sulla Francia, sulla disfatta della Francia. Gli azzurri hanno ovviamente visto la partita e sono rimasti abbastanza sorpresi, perché nessuno si aspettava un crollo del genere da parte della Francia. C'è stato questo commento su Domenech, cioè nell'ambiente della nazionale italiana si pensa che con un altro CT forse la Francia sarebbe ancora dentro il mondiale. E al di fuori dei mondiali ci sarà un servizio sulla vittoria dei Lakers nell'NBA. Diana, Berlusconi si trova di fronte a due prospettive che non gli piacciono affatto. Da un lato può lasciar perdere la legge, che si è scontrata ormai contro una impopolarità dilagante, e dall'altro invece accettare le modifiche di Fini, dando così la vittoria al suo antagonista. Che succede? Ormai la vittoria a Fini, grazie anche alla mobilitazione su questa legge, va data per scontata. Berlusconi ha perso la battaglia di incassare una legge come l'avrebbe voluta lui, addirittura intercettazioni solo per mafia e terrorismo, ma piano piano la legge si è ammorbidita e Fini sicuramente gli ha dato l'ultimo colpo, l'ultimo giusto colpo, chiedere delle modifiche perché ai magistrati rimanga la possibilità di intercettare, come ieri ricordava la Buongiorno. Il problema è adesso che cosa succede, cioè se si fanno queste modifiche e il testo passa entro luglio e si chiude questa partita, o se invece si rinvia tutto a settembre e ci si concentra, come vorrebbe il popolo berlusconiano, su temi di più stringente attualità, soprattutto quelli economici. Uno sguardo diverso sulla realtà, ogni settimana con il domenicale. L'inserto della domenica ogni settimana cerca di avere uno sguardo meno affannoso rispetto al quotidiano sulla realtà. Questa settimana abbiamo chiesto ai vignettisti di vari paesi del mondo di disegnare la situazione italiana della libertà di stampa in Italia. Abbiamo avuto delle risposte molto superiori alle nostre aspettative. Ci sono poi gli appuntamenti fissi, quello con i sapori, domenica parleremo di menta, l'altro appuntamento fisso con le tendenze, si è appena chiuso la sfilata PT Uomo e cerchiamo di avere anche qui uno sguardo, una zoomata molto particolare sulla camicia da uomo. Infine incontriamo Emilio Solfrizzi, vincitore del premio Flaiano per Pazzi d'Amore 2. Repubblica Più su iPad. Oggi abbiamo per cominciare un contenuto che è soltanto nostro, un'esclusiva nostra. Sì, oggi abbiamo una video inchiesta del nostro inviato Alberto Stadera a Pomigliano, con delle interviste ai lavoratori che stanno protestando dalla fabbrica della Fiat. Quando entrai 10 anni fa, quello che dicevano tutti gli amici, che mi dicevano che ero stato molto fortunato perché lo chiamavano il posto fisso. E poi una gallery molto curiosa sul vero forse personaggio dei mondiali nel Sudafrica, cioè Maradona, e dopo la vittoria della sua Argentina, insomma, festeggia in tutti i modi. Beh, devo dire che questo spazio di Repubblica è molto interessante, perché in effetti fa vedere dal vivo, e chi come noi ha l'opportunità di vederlo, purtroppo chi ci sta vedendo di nuovo adesso non può vedere quello che noi vediamo sullo schermo, ma può ascoltare soltanto l'audio. Però devo dire è uno spazio davvero molto interessante, perché in sostanza fa vedere anche come si fa un giornale, cioè come si mette in piedi un giornale e come praticamente si stabilisce una linea editoriale di un giornale. Qualcuno mi dice qui che potremmo anche con i nostri potenti mezzi fare questo, ma insomma credo che possiamo limitarci a raccontare come stanno le cose. Ancora un servizio, cioè un titolo, Vespa Star di YouTube, gli cade il trofeo della schiavone. Allora, vediamo questo pezzo, evidentemente sarà stata una vespata, diciamo così, del nostro grande Vespa nazionale che si è fatto cadere il trofeo della schiavone ed è stato subito immortalato e trasferito su YouTube diventando un recordman di ascolti e di contatti. Vediamo se riusciamo a trasmetterlo, perché credo che sia un pezzo abbastanza esilirante di politica verità, diciamo così, va, di politica fuori dalle etichette di normalità e di show paludato come lo show condotto da Bruno Vespa e che viene definita la terza camera italiana. Da vecchio tennista le dico grazie. Grazie per questo. Mamma mia! L'emozione! Senta, se l'aspettava, dica la verità. In effetti devo dire che insomma con questa performance Vespa diciamo ha battuto tutti i record, perché insomma intervistare una grande professionista del tennis e farsi cadere il trofeo proprio mentre è in corso questa intervista, ragazzi miei, effettivamente si capisce perché poi si diventa record di ascolti su YouTube. C'è un richiamo di una grande attrice di qualche anno fa, Mita Medici. Vediamo un po' anche un po' di costume, vediamo perché Mita Medici viene citata sul sito di Repubblica. Mi auguro per cose positive, perché non ho avuto notizie negative che riguardano questo personaggio cinematografico degli anni 80-90, diciamo. Quindi non so dirvi se è per una cosa positiva o una cosa negativa. Vediamo, allora aspettiamo di aprire il servizio, pochi minuti, sta partendo. Sono Mita Medici. Lo sapevate che la legge sulle intercettazioni telefoniche, meglio conosciuta come legge Bavaglio, impedirà a noi cittadini di informarci, ai giornalisti di scrivere, agli editori di pubblicare. E invece sapere vuol dire libertà. Noi siamo liberi di informare chi non sa di questa legge. Adesso lo sapete. Altro che cose negative o cose, io pensavo subito veramente, scusatemi, ma insomma lo dico con molta sincerità, che fosse passata a miglior vita addirittura, invece è un videoservizio sempre sulle intercettazioni. Vediamo se ci sono sì, c'è questo pezzo di due grandi scrittori italiani del libro giallo, Camilleri e Lucarelli, che hanno detto come nasce una loro opera, età completamente diverse, ma grande capacità di scrittura di Carlo Lucarelli e dell'altro grande autore di Montalbano. Vediamo cosa dicono. Ricordo, ci siamo incontrati io e altri scrittori di romanzi polizieschi con Camilleri. Non ricordo se era il Noir Festival di Courmayeur oppure il Festival del Giallo di Cattolica, però mi ricordo quest'uomo che si avvicina e ci dice buongiorno. E saluta noi, dice, sono un nuovo scrittore. C'è stata questa proposta e mi ha subito interessato, perché una cosa è avere a che fare con uno scrittore che stimi, no? Con uno scrittore che stimi anche umanamente, e già so due punti a favore. E poi ci sono 40 anni di differenza fra me e lui. Allora, se io scrivo dei gialli e lui scrive dei gialli, lui per esempio ogni tanto tinge di nero, volge al noir, io no, mai. Il mio personaggio Grazia Negro ha un mistero per le mani ed è un mistero che riguarda anche la zona di Montalbano. E quindi scrive a Montalbano e gli manda i materiali che ha, gli manda una lettera e poi una serie di verbali e cose di questo genere. Montalbano risponde che lui con una lettera e una serie di materiali. L'idea era questa, che ci fosse un'inchiesta non ufficiale, perché era più bello, naturalmente, un po' sempre per quella logica in cui i personaggi più li metti nei guai e meglio reagiscono, di giocare su questa cosa che è venuta fin dall'inizio con Montalbano, che dà una risposta secchissima a Grazia Negro dicendogli non me ne posso occupare, lasciami in pace. E quindi sono due modi di investigazione che si confrontano e si sfidano in un certo senso. Partiamo da un omicidio. Allora io provo a metterti lì rubando dalla cronaca, poi lo costruiamo e mi dici se poi può funzionare, cioè se invece ti dice qualcosa questo tipo di delitto, se no ne scegliamo un altro. Allora, un omicidio, c'è stato un omicidio di cronaca di cui ometto completamente tutti i particolari, quindi che possano renderlo riconoscibile. Allora, c'è una casa, c'è una villetta isolata, una persona non ha più notizie di una persona da 2 o 3 giorni, per cui va a trovarlo. La villetta ha il cancello aperto, di solito questa persona lo chiudeva perché era una persona che aveva abbastanza paura di cosa poteva succedere, una persona insomma timorosa. Invece il cancello è aperto, suona e non risponde nessuno, questo è quello che è accaduto nella realtà in questo posto. Gira da dietro e c'è la finestra che è aperta, cioè la finestra, la serranda che è alzata, mentre invece lui le chiudeva di notte. Allora a quel punto si spaventa, recupera un mazzo di chiavi da una parente, apre, entra dentro la stanza da letto e non c'è niente. Il letto è in disordine e c'è un mucchio di vestiti buttati sul pavimento. Questa persona comincia a guardarsi attorno, comincia a frugare sui vestiti e trova che sotto i vestiti c'è il corpo del suo amico, il quale è stato ucciso in una maniera particolare, a coltellate, indossa abiti femminili, non c'è ragione perché lo facesse, e giace dentro una chiazza d'acqua, ormai asciugata, comunque l'umidità si vede sul tappeto, con 2 pesciolini rossi morti. Questo è successo realmente. Ho cambiato qualche piccolo particolare, ma in realtà... Ti sembra un mistero sufficiente per un romanzo giallo? Entrerebbe Montalbano in un romanzo di questo genere? C'è dubbio. E che farebbe? Anzitutto credo che la prima curiosità che potrebbe avere Montalbano non è tanto il fatto di sapere perché quell'uomo è vestito da donna, perché le risposte possono essere tantissime. Credo di sapere che la prima cosa che gli interesserebbe è sapere se quell'acqua che si trova che ha bagnato il tappeto è la stessa acqua dei pesciolini, cioè a dire se si è trattato dell'acqua che si trovava dentro un contenitore di pesci rossi, oppure è dell'altra acqua, e se c'era in quella casa un contenitore di pesci rossi. E beh, è molto bella questa discussione tra due grandi scrittori italiani che si confrontano e che tentano di far nascere addirittura un'opera a 4 mani. Beh, veramente sarà molto interessante, insomma, anche perché Carlo Lucarelli anche ha diversi personaggi, uno dei suoi personaggi più riusciti è l'ispettore Nigro, Lo Nigro, ispettore Lo Nigro, ho letto anche io più di qualche libro di Carlo Lucarelli e vedremo allora come riusciranno ad andare d'accordo il commissario Montalbano e l'ispettore Lo Nigro. Vediamo un po' se ci sono altre situazioni sulle quali possiamo dare un'occhiata molto veloce. No, non ci sono altre notizie. Allora ci fermiamo un attimo, ma ci fermiamo nel senso che provvediamo un attimo a andare su un po' di musica e poi torneremo sempre sui grandi siti internet nazionali. Allora, vediamo un po', c'è qualche piccolo problema tecnico, vediamo se riusciamo a far partire il pezzo, è partito, sta andando, le vibrazioni, e se ne va.

Bene, allora siamo tornati insieme e con l'intento di chiudere anche praticamente questa parte relativa alla vicenda dei siti internet nazionali. Allora vediamo un attimo cosa emerge sul sito del Corriere della Sera. Vediamo un attimo, ci sono molti servizi, anche questo è un sito gettonatissimo, praticamente è il caso di dirlo, è uno dei più seguiti in Italia naturalmente. Festival della televisione a Monte Carlo vince Beautiful, notti mondiali, la RAI tocca il fondo, la commedia dei trentenni iraniani, vediamo altri titoli. Subito al sole per 8 ore è un errore grave. E allora iniziamo proprio con questa, perché credo che sia una notizia interessante per tutti voi che ci state ascoltando. Quindi è un grave errore, sembra, mettersi subito al sole e prendere sole subito. Sentiamo di che si tratta. Lo facciamo col professor Natale Cascinelli, già presidente del gruppo Melanoma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e per anni presidente dell'Istituto dei Tumori di Milano. Professor Cascinelli, quali sono le persone che corrono maggiormente il rischio di tumori della pelle in generale? Ma in generale sono i soggetti con la pelle molto chiara, gli occhi azzurri, i capelli rossi, i cosiddetti tra virgolette scozzesi, che sono stati creati dal buon Dio per vivere nelle brume della Scozia, e quando vengono in regioni soleggiate hanno dei problemi. Ecco, quali sono i tumori che rischiano più facilmente? In senso assoluto sono i tumori cosiddetti epiteliali della pelle, cioè il carcinoma vasocellulare e spinocellulare, che non sono particolarmente cattivi, ma anche e forse soprattutto per questi soggetti melanoma. Quali sono i criteri che devono utilizzare in particolare queste persone per evitare il rischio di tumore della pelle? Esporsi al sole con estrema cautela, nel senso che questi soggetti, tra virgolette, scozzesi hanno delle cellule che li difendono dalle sostanze tossiche che inducono i raggi ultravioletti in modo estremamente inefficace. Ecco, però esistono anche le creme solari. Le creme solari sono un grosso problema ed è uno dei problemi discussi, perché il segnale d'allarme di eccesso all'esposizione alla luce solare è la scottatura. Se noi utilizziamo delle creme a protezione cosiddetta totale o ad altissima protezione, cancelliamo questo segnale d'allarme, perché certamente le creme ad alta protezione evitano la scottatura, però rischiamo in questo modo di stare esposti al sole molto più a lungo di quanto potremmo. In realtà, mentre le creme proteggono dalla scottatura, non proteggono dagli effetti a lungo termine negativi dei raggi ultravioletti. Quindi mi sembra di capire, le creme vanno bene, proteggono dalla scottatura, però crema o non crema non bisogna esporsi troppo, bisogna comunque essere cauti nella lunghezza dell'esposizione. Bisogna essere cauti perlomeno nel periodo iniziale di esposizione. Chi arriva al mare e sta 8 ore al sole commette un errore gravissimo, comincia il mattino presto, pomeriggio tardi, poi quando abbronzato può starci anche 8 ore, però prima deve essere abbronzato. Perfetto, ecco, a proposito delle scottature, mi sembra di ricordare che in particolare per i bambini, le scottature nei bambini sono quelle che poi espongono un maggior rischio di sviluppo del tumore della pelle da adulti, in particolare il melanoma, è vero? Sì, è vero, è in particolare perché il bambino, indipendentemente dalle caratteristiche individuali, ha un sistema di cellule melanocitarie, cioè quello che lo difendono dal sole, estremamente poco efficiente. Quindi insomma, buon senso, prudenza, specialmente con i bambini, creme sì. O non creme. Soprattutto quando facciamo le valigie ricordiamoci di metterci anche il cervello. Beh, servizi sulla salute, devo dire, molto interessanti questi che si vedono sul Corriere della Sera. E sono veramente interessantissimi perché c'è di tutto quando si parla di salute, c'è veramente di tutto e credo che sia un bene che vengano portati avanti questi servizi, anche perché sono spazi molto limitati nel tempo, quindi non molto ampi, durano una decina di minuti, ma danno notizie molto efficaci. Ce ne sarebbe anche un altro da vedere, che cosa mangiare dopo sport e dopo attività sportiva. Vediamo se riusciamo, ma vedo che non riesce a caricarsi, però probabilmente abbiamo beccato, come dire, una fase recessiva, diciamo così, per quanto riguarda la possibilità di scaricare da internet, che non è sempre facile. Poi sembrerà strano, ma noi stiamo al centro della città, quindi siamo proprio a 2 passi da Piazza Cavour, ma abbiamo dovuto ricorrere ad un gestore, diciamo così, minore, va, senza fare nomi, minore perché non è importante come potrebbe essere un gestore di carattere nazionale, diciamo così, più importante, perché gli altri non arrivano qui. E questo è veramente incredibile nel 2010, avere ancora problematiche di questo genere. Credo che sia veramente estremamente negativo. E malgrado ciò, malgrado questo gestore si sia detto disponibile a fornire i servizi alla nostra emittente, però non riusciamo, come dire, ad essere perfettamente in linea. Allora, riproviamo per l'ultima volta. No, dobbiamo fermarci perché gira quella freccetta che si vede quando praticamente cerca di caricare, ma non riesce a mandare in onda. Beh, ci fermiamo allora, perché non è che siamo proprio, come dire, abbiamo lavorato un po' su questo argomento, quindi ci possiamo anche fermare. Adesso la mia preferita, una delle mie preferite, una voce italiana magnifica, una donna molto bella, molto carina, che tra l'altro adesso è anche in attesa di un figlio, Giorgia, Gocce di Memoria. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani.

Said the night be the time to be getting around, and all the people be dancing all over the town. Said the night be the time to be getting the kick, to be rocking the house, to be fixing the mix. All the party people, they be coming out in the night. We're gonna get you moved and make it feel alright. Fly girls, fly guys, to go out in the day, and nothing going down the new time anyway. If you like me, well, I don't mind, girl. You know this night be a funny word. I said walk, man. Understand, I got double that phone, send it back my stand. Keep shaking, money making, to the beat that's so heartbreaking. Cause the party be reaching over the garage, and you're walking on into a chillin' ride. I said the daytime is the playtime, it's the girl. Bene amici, ho lasciato per ultimo una notizia, per ultimo nel senso che è l'ultima notizia di oggi. Siamo in radio dalle 17.15, 17.30 circa minuti primi, quindi praticamente tra l'altro è iniziato anche prima, devo dire. Sono andato a prendere i giornali in piazza, ma alle 17:15 circa, 16:45 circa, ho trovato praticamente le edicole chiuse. Devo dire anche una particolarità di questa situazione, però, perché sia l'edicola dell'angolo che l'edicola in piazza Cavour erano chiuse, luci accesi, con tanto di cane dentro, perché sappiamo della passione per gli animali a quattro zampe sia di Luca che di Paola, e quindi praticamente si poteva osservare il cane, ma l'edicola era chiusa. Quindi voglio fare così una notazione di costume che riguarda... No, non portava Cecconi, come al solito dice, se mi portava il giornale in bocca il cane. No, questo accade solo nei film americani. Quindi avrei iniziato anche prima la trasmissione se non ci fossero stati problemi di questo genere. Bene, allora, praticamente dicevo, una notizia che siamo sicuri creerà anche problemi di carattere etico. Ho sbagliato, sono pentito, ora credo sia arrivato il momento di pagare per i miei errori. È giusto che aiuti chi ne ha bisogno. Parole pesanti e gravi di dolore, quelle che scrive un detenuto di 58 anni, detenuto nel carcere di Torino. Il primo ad aver chiesto di poter donare un rene come altri, circa una decina. La richiesta supera le sbarre e arriva all'ospedale Molinette, dove nei mesi scorsi sono già state prese in considerazione le offerte di altri samaritani al Centro Nazionale Trapianti. Da qualche mese che l'uomo sta maturando questa idea, una sorta di riparazione sociale per aver sparato alla moglie di 30 anni più giovane di lui perché voleva portarsi via la loro bambina. Per questo resterà in cella fino al 2025, chiede di poter aiutare un amico malato da 3 anni in dialisi, chiede in qualche modo di dare il suo contributo solidale. La sua offerta, come diventa di dominio pubblico, apre un ennesimo dibattito bioetico. È possibile comportarsi come è stato recentemente deciso per gli altri donatori viventi? Vanno usate le stesse procedure oppure, visto che si tratta di un detenuto, ne vanno inserite delle altre? La donazione anche in questo caso può essere considerata una libera scelta. Alessandro Nanni Costa, che guida il Centro Nazionale Trapianti, per una situazione come questa serve grande cautela. La donazione deve essere libera scelta e quindi bisogna domandarsi fino a che punto lo è quando si sta scontando una pena. E vediamo anche il professor Davac, che è un esperto di bioetica, cosa dice. Nessun motivo vieta la donazione da parte di un detenuto, ma vanno accertati alcuni elementi fondamentali per poter procedere. Lorenzo Davac, vicepresidente del Comitato di Bioetica e docente di filosofia del diritto a Roma 3, si mostra possibilista, ma pone dei limiti molto netti. Esattamente, si deve essere certi che la persona non sia stata obbligata, non venga remunerata e sia assolutamente libera di scegliere. Per il detenuto vale lo stesso principio che per gli altri donatori viventi. Per loro nessun pagamento e nessun baratto, quindi anche per lui nessun ritorno, solo una scelta solidale. Una commissione terza fa le valutazioni. Per evitare gesti eroici, scelte avventate, chi dona deve essere conscio che da questa offerta non avrà vantaggi personali. È indubbio che questa vicenda pone delle questioni di carattere etico e morale. È indubbio però che, insomma, una persona che dice, e se è sincero, credo che non spetta a noi stabilirlo, in linea di massima credo che dobbiamo e possiamo credere a questa sua sincerità, una persona che ha sbagliato e dire voglio porre rimedio a questi sbagli, voglio dare qualcosa alla società perché credo di aver sbagliato, io credo che sia un gesto davvero nobile, indipendentemente dalla persona che lo propone. Saranno poi gli esperti, sarà poi il comitato etico a stabilire cosa sia giusto fare in questi casi. Inutile dire che questo non ha nulla a che vedere con altre vicende simili, voglio dire, mi riferisco alla Cina, dove addirittura si sa, è quasi ufficiale, che vi è un commercio di organi da parte delle autorità carcerarie che stabiliscono come, quando, dove, soprattutto quanto possa costare un commercio di questo genere. Nel frattempo vedo una persona che sta scrivendo qualcosa, probabilmente indirizzata a me, quindi vedremo di che si tratta. Bene amici, abbiamo concluso anche questa giornata, queste due ore di diretta, due ore e mezza circa di diretta giornaliera. Sentiamo cosa scrive. Te ci vuole un trapianto, no, non è ripetibile. Va bene, è una pessima battuta. E voglio, prima di salutarvi, visto che la cosa sta facendo molto rumore in città di Anagni, voglio fare un saluto via etere a tutte le persone che da tutta Italia sono giunte ad Anagni per partecipare al raduno degli ex convittori del convitto Principe di Piemonte. Voi sapete che c'è stato già il raduno delle convittrici della Regina Margherita per i 120 anni del convitto Regina Margherita, che ha fatto grande successo anche sul nostro sito internet, e adesso si replica addirittura con 3 giorni di raduno dedicato agli ex convittori. Quindi voglio salutare tutte queste persone, ringraziarle di essere venute da ogni parte d'Italia. E soprattutto sappiamo, abbiamo avuto notizia di cene, di incontri, sappiamo anche che un ex professore farà una cena con 120 ex alunni questa sera, quindi ci sono molte iniziative di questo genere in giro per la città. Sì, ma le convittrici erano femminucci, questi sono maschietti, non credo che il successo su un nostro sito sia analogo. Questo è tutto da vedere, insomma, ecco, mi sembra una battuta molto maschilista, ecco, molto sessista, che si poteva proprio evitare, guardate, ma d'altra parte io sono circondato da soggetti di questo genere, amici ascoltatori, e non è facile, non rimanere contaminati da questo loro modo di fare, anche se io cerco in ogni modo e maniera di evitare di rimanere contaminato da questo loro modo di intendere le cose. Bene amici ascoltatori, allora io credo che sia veramente arrivato il momento di salutarci. Vi auguro un buon proseguimento, un buon fine settimana, a risentirci a presto. E del resto non fa nulla. Forse erano meglio le fragole, e tu ti eri solo perso. Sono bello, sono bellissimo.